Allora, nasce, si chiama l'idea, infatti si chiama Yin, perché Yin è praticamente la componente nella medicina cinese, nelle spiritualità cinesi, la componente femminile, quindi la componente oscura in contrapposizione con Yang. Quindi abbiamo pensato di fare una con rivolta a artisti nazionali e internazionali, con le tematiche degli 8 punti, su un focus sulla legge, sui 40 anni della 194, e omaggi vari a donne che per noi hanno rappresentato o rappresentano. E quindi praticamente abbiamo lanciato questa con e ci hanno inviato delle opere da tutta Italia, da fuori dall'Italia, e abbiamo raccolto circa 50 opere. Quindi insomma è stata molto partecipata. I temi affrontati nelle opere per la maggiore? Allora, i temi affrontati per la maggiore sono stati la fuoriuscita dalla violenza, sia in coppie gay, lesbiche, queer e eteronormate. Poi abbiamo avuto tantissimi interventi di omaggi a donne, perché la con era aperta ovviamente a tutti i generi, per cui abbiamo pensato di lasciare anche temi un po' più liberi, quindi non solo sugli 8 punti, in quanto magari poteva essere un po' occludente. Altri temi trattati sono stati quelli della libertà, dell'autodeterminazione dei corpi, anche ce ne sono stati alcuni sulla strumentalizzazione del corpo delle donne nei social, nelle televisioni e sul Me Too, il movimento che è diventato We Together, sul cinema. Quindi per lo più sono stati questi. Ecco, sarà allestita solo oggi o sarà visibile anche in altri momenti? Sarà allestita oggi e poi sarà visibile in strada, in un luogo che ancora non abbiamo deciso, che quindi vedremo poi. E poi c'è un grande poster sui migranti e sulle migrazioni, perché ci è sembrato, per quanto era un fuori tema, visti gli accadimenti degli ultimi mesi, ci era sembrato doveroso mettere un omaggio, diciamo, ribadire il nostro no completo ai confini, al razzismo, e quindi ampliare, diciamo, la tematica a una questione migrante che è molto importante adesso in Italia.